per vincere. Il libro del giorno di oggi si intitola Kamchatka e l'ha scritto Marcelo Figueras, è pubblicato dall'Asino d'Oro, la casa editrice l'Asino d'Oro, nella traduzione di Gina Maneri, mentre qui con noi nello studio per tradurre le parole di Marcelo Figueras c'è Mattia Bilardello. Allora, buongiorno Bilardello. Buongiorno. E buongiorno a Marcelo Figueras, benvenuto. Buongiorno. Questo è un gran bel romanzo quello che ha scritto Figueras, che racconta un'infanzia, una piccola parte di un'infanzia nell'Argentina del 1976, subito all'indomani del colpo di stato militare del 24 marzo, quando una coppia di fratellini deve improvvisamente abbandonare la casa e andare a vivere in un'altra casa che è stata data in prestito da qualcuno, insieme ai genitori che devono nascondersi, genitori evidentemente legati al mondo della protesta, del peronismo, della protesta contro l'ingiustizia sociale e l'imminente e poi effettivamente accaduto golpe militare. Seguiamo dunque questo periodo di esilio, di clandestinità, ma ciò che è particolare e che avvicina Kamchatka a opere come 400 colpi oppure Ciò che Maisie sapeva di Henry James o La vita è bella, se volete, è che tutto questo è raccontato dal punto di vista di un bambino, il più grande, che racconta la vicenda e che ovviamente comprensibilmente sposta rispetto alla realtà drammatica, traumatica, politica che sta vivendo, e racconta giochi, racconta supereroi, racconta vita scolastica anche in una scuola in cui ha dovuto trovarsi all'improvviso abbandonando la propria, e tutto un racconto sul trauma che passa attraverso l'illusione del trauma, per cui è un libro al tempo stesso dolcissimo, divertente e straziante. Marcelo Figueras, come nasce questo libro? It was born practically out of desperation. Nasce dalla disperazione questo libro. It was written at the end of the 90s. It was a time when Argentina was pretty much the paradise of impunity. Scritto a fine anni 90, quando l'Argentina era il paradiso dell'impunità praticamente. Because the president Carlos Saúl Menem has given a broad amnesty to all the criminals from the military regime. Per via dell'amnistia accordata dal presidente Menem ai criminali della dittatura. And for the other part, Argentina was too kind of a crazy consumerist country. E in Argentina era esplosa una mania di consumismo sfrenato. And at that time nobody wanted to listen or to have anything to do with a story that dealt with this tragic past. Nessuno voleva sapere del vissuto di questo passato drammatico. So I felt very much alone. Allora? But I felt the almost physical need to tell a story about these awful times that everybody seemed prone to forget. E quindi sentivo l'isolamento e sentivo anche il bisogno fisico proprio di raccontare qualche cosa che tutti intorno a me volevano dimenticare. E però è curioso quello che ci dice Figueras, perché lei l'ha raccontato attraverso il non raccontarlo, raccontando un bambino che non dice ovviamente quello che sta accadendo. That was part of the trick. I needed, I wanted my novel to reach many people, and for that I needed some kind of trick of the hat in order to lure them, to lure the readers into a kind of a novel of romanzo that wasn't not only tragic all the time, but has another ingredients. E questo è stato il mio gioco di prestigio, di catturare un pubblico che magari non era attratto da quel tipo di tematiche, proprio attraverso appunto una storia che non fosse un dramma sostenuto e che potesse quindi rivolgersi a una platea molto più estesa. In realtà l'effetto è esattamente appunto opposto, perché in una storia che trascina, perché abbiamo appunto un po' come in un giornalino di Gian Borrasca, per capirci, una serie di episodi buffi della vita quotidiana, del doversi nascondere, del dover celare la propria identità, e ogni tanto per esempio c'è una scena in cui al mare il padre del protagonista, che si chiama Harry e di cui non sapremo mai il vero nome, perché lo stesso nome Harry è il nome finto che si dà durante la clandestinità. Quando il padre di Harry a un certo punto si mette sott'acqua e gioca all'annegato a spaventare il figlio, all'improvviso esce dall'acqua e il figlio lo copre di botte con una violenza tale che ci fa sentire tutta la violenza repressa di quei periodi, di quei mesi. Because he, what Harry tells is pretty much all intuition that has to do with the perils he knows he's going through and the fear of losing his parents, and that's why what his dad does in that occasion as a game. For Harry is pretty much tragic because it's the kind of a premonition of his dad's death, and so he gets angry inevitably. Perché Harry ha una intuizione molto forte in quel momento, tutti quei pericoli che avverte, percepisce, ma dei quali sa molto poco, sono appunto una specie di indicazione, una premonizione appunto della perdita dei genitori, e quindi quello che il padre, il tiro che il padre gli gioca andandosi a immergere, appunto per lui è una premonizione di una morte che poi avverrà. E che cos'è il Kamchatka? Kamchatka is it's a place of the mind or of the soul, a kind of a symbolic hideaway that Harry builds in order to survive. È un luogo della mente, un luogo dell'anima, è un nascondiglio che Harry si costruisce in cui possa andare a nascondersi e sopravvivere. Ora lo so che tanti nel nostro pubblico ci staranno scrivendo che il Kamchatka è una penisola asiatica nota soprattutto a chi gioca a Risico. The idea it is born of the fact that Harry and his dad play Risico very much, as we all the kids did back in the 70s in Argentina, and always with the same result, because dad always wins, except for that that one last game when dad in a way allows Harry to win, trying to teach him that if he stays in Kamchatka, this sort of country that exists as a country only in the Risiko board, he has a chance to survive. Prego, Bilardello. Sì, dunque, alla fine il risultato è quello, è un gioco cui si giocava in famiglia, era negli anni 70, quindi padri con i figli, l'esito era sempre lo stesso perché i genitori invariabilmente vincevano contro i figli, ma in quell'ultima partita che giocano Harry e il padre, il padre permette a Harry di vincere dandogli questo consiglio appunto di rimanere, di affermarsi sulla Kamchatka, che è un luogo appunto che esiste solo sulla tavola da gioco del Risico, ed è appunto la sua unica speranza, è appunto una piccola indicazione strategica in uscita. That's the last word dad says to Harry, Kamchatka, in order to make him remember that's where he has to go inside in his mind in order to survive. Ed è l'ultima parola che Harry sentirà il padre pronunciare, Kamchatka, come appunto indicazione di un luogo in cui andarsi a rifugiare all'interno della propria mente, all'interno dell'animo. In effetti la prima pagina del romanzo ci dice proprio che quest'ultima parola è Kamchatka, e tutto il romanzo serve a farci capire come mai il padre lascerà al figlio questo, diciamo, consiglio di salvezza. Ma il Kamchatka rischia di diventare anche una prigione, Figueras? Sì. I'm messed with. Lei parla anche italiano? Italiano and può provare? And no. I don't want to soil that beautiful language. My mother would kill me if she was alive. It becomes a kind of a prison for Harry as a grown up, because in a way, Kamchatka is told. By Harry as a grown-up, trying to remember to relive that last days that he passed with his parents. And during his childhood, Kamchatka, as the fortress of solitude was for Superman, it was a place he used to survive, as I said before. But when he grows up, he feels that it's kind of beginning to be a kind of a prison of an armor that don't protect him anymore, but embraces him and without allowing him to breathe. Allora, intanto non parlerò italiano perché mia madre, che era italiana, mi ucciderebbe se sporcassi la vostra meravigliosa lingua. Però sì, assolutamente, per Harry la Kamchatka da adulto diventa una prigione, perché la storia viene raccontata da Harry quando è adulto e rivive il suo passato di bambino. A quei tempi la Kamchatka era un luogo della solitudine, era una fortezza all'interno della quale rifugiarsi per sopravvivere. Da adulto ovviamente si rovescia, diventa una prigione, un luogo di costrizione che non protegge, ma appunto diventa un fortissimo confine per la sua crescita. Anche se il romanzo rimane sempre nella cerchia dell'infanzia, non vediamo mai Harry da adulto, intuiamo che poi avrà dovuto fare i conti con questo Kamchatka, che oltre a essere il titolo del romanzo di Marcelo Figueras, di cui stiamo parlando con l'autore, è il titolo del film che ne è stato tratto da Riccardo Darin nel 2002. Questo per rispondere anche a un'ascoltatrice come Gabi, che ci scrive: a me ricorda la trama di un film, cos'è, un plagio o un'altra cosa? No, è proprio il film tratto da questo romanzo. È contento del film? Sì, yes, I am. I wrote the che è il nonno. Senta, Figueras, parlando adesso di punti di riferimento letterari, c'è tanta letteratura citata, messa in gioco, ovviamente anche nei modi divertenti che possono caratterizzare un bambino che si incomincia a scoprire il mondo dei libri. Più discretamente ci è parso di sentire molto Cortázar qui. C'è Lucas, per esempio, che fa pensare a un tal Lucas. Lucas è un diciottenne che si trova a vivere nella casa con la famiglia in fuga. C'è La casa occupata, c'è forse Rayuela, Il gioco del mondo, perché è tutto un gioco in fondo questo romanzo. C'è L'orso dei tubi a un certo punto, che sembra di ricordare quando si parla dei rumori dentro questa casa. Ecco, sbagliamo, oppure ci sono altri autori forse che sono stati importanti per lei per scrivere questo romanzo? No, he's really important for me. He was in a way the door I used to enter the realm of Argentine literature. No, lui è molto importante per me, è stato veramente la mia porta, la porta attraverso la quale sono entrato nella letteratura argentina. I still remember I was, I don't know, at elementary school, fourth grade, fifth grade, when my teacher read out loud a Cortázar short story called Los Venenos, The Poisons, which was, by the way, narrated by a boy. E avevo qua, ero in forse quarto o quinto anno delle scuole elementari, quando la maestra ci lesse un racconto di Cortázar che si chiamava I Veleni. Lo leggo per intero, tutto intero. The whole story? Yes. Questo è interessante, quanto accada oggi nella scuola italiana, che gli insegnanti leggano racconti per intero agli studenti. Forse accade. Prego. And he still is a hero of mine. Another hero of mine is Rodolfo Walsh, which he was also a journalist, a very, very good writer, and sadly is one of the desaparecidos still. And what I love about Walsh is the precision he uses when he writes fiction, and I guess that's something he owed to his vein as a journalist. And di Walsh hanno appena tradotto adesso Bilardello Cittadurale, le parole di Marcelo Figueras, ma citava Rodolfo Walsh. Voglio dire subito che sia Operazione Massacro, che Fotografie sono stati appena tradotti in italiano in questi anni. Prego, Bilardello. E allora, appunto, un altro oltre a Cortázar è Rodolfo Walsh, per appunto, che fu giornalista ma anche poi desaparecido. E quello che più mi colpisce e mi è servito della sua scrittura è l'esattezza nello scrivere fiction, finzione, una vena di esattezza che gli veniva evidentemente dall'essere stato proprio un cronista. And the other part of Walsh that is really important for me is that he never gave his back to reality, which is something that most Argentine writers did for many, many years. For one part, as a consequence of, I don't know, loving too much French literature and this kind of very cerebral, abstract way of telling stories. And on the other part, I mean, I guess as a consequence of self-censorship, the fact that having to survive during the military regime and so forth. E poi l'altra cosa che mi piace di lui è che è uno che non ha mai voltato le spalle alla realtà, cosa che invece tanti altri autori argentini hanno fatto, un po' per il, diciamo, cattivo influsso, comunque l'amore per la letteratura francese, poniamo, con queste fortissime astrazioni, queste che però diventano una forma di rimozione. In parte era anche un istinto di autocensura, che era una strategia di sopravvivenza, però chiaramente, e appunto tutto questo in Walsh non c'è mai stato. Lei a un certo punto dice che questo romanzo, meglio lo dice il suo protagonista Harry, che questa è una storia non di desaparecidos ma di aparecidos, cioè persone che appaiono. During the 80s, that is immediately after the end of the military regime, there were many, many movies. Maybe you'll remember The Official Story that won the Oscar, etc., that dealt with the military regime and the kidnappings and the killings. But most of them dealt with this stuff in the same way. There was always the innocent, the victim, that is the militant, the young guy that believed in a fairer world, and then he's kidnapped, then he's tortured, and then he's killed. So there were many, many movies that were really unbearable to watch. Beh sì, allora dunque, dopo gli anni, negli anni 80, tardi anni 80, quindi dopo la fine della dittatura, c'è stata tutta una serie di film che raccontavano l'esperienza della dittatura, uno di questi ha vinto l'Oscar, ma hanno il difetto di averlo raccontata sempre allo stesso modo. Da un lato c'erano degli innocenti, che erano anche le vittime, che erano i militanti della società civile argentina, e credevano in un mondo più giusto, e l'esito era sempre quello. A un certo punto il protagonista viene rapito, viene torturato, viene ucciso, e io ero un po' stanco, creava un po' un effetto di nausea tutta questa violenza raccontata in questa maniera. Il film è la storia ufficiale di Luis Puenzo. Because these innocents became clichés. They were just the cliché of the young partigiano. And not people. No, no, questo viene da sua madre, questo. And somebody told me after reading the first draft of the book that it was the first book that it wasn't as much a story about desaparecidos as a story about aparecidos, because it gave in this case mom and dad, Harry's parents, three dimensions. They are not shown only as militants, because as but as people, as parents, as sons, and as lovers, and in that way, for many, many people and many readers, it was the first time that they were able to consider this the disappeared as breathing, living people and not only shadows. E allora, dunque, il difetto appunto era di trasformare questa militanza, questo mondo della militanza, in un cliché, e allora ci trovavamo di fronte non più a delle persone in carne e ossa, ma allo stereotipo del partigiano. E a un certo punto un lettore critico del mio libro appunto ha parlato proprio di Aparecidos, perché i genitori di Harry sono figure a tutto tondo, a tre dimensioni, non sono soltanto dei militanti, ma sono appunto persone in carne e ossa che è possibile vedere nelle loro vesti di genitori, di figli, di amanti, e per molti lettori questa è stata la prima volta in cui si è potuto leggere di persone in cui anche identificarsi, persone sulle quali era possibile trovare una sintonia. C'è anche un lavoro interessante sul genere, direi, perché la mamma di Harry e del nano, il fratellino, è una donna forte, una donna decisa, che perlomeno deve essere decisa data la situazione, mentre il padre è una figura di padre più accessibile rispetto alla generazione, diciamo, dei nonni, e quindi in entrambi i casi vediamo delle trasformazioni rispetto a quello che forse potremmo aspettarci in un racconto più tradizionale. Però io l'ultima domanda, Figueras, vorrei fargliela sull'architettura del racconto, perché l'indice, lo vedrà chi leggerà questo Kamchatka, è articolato su 5 parti: prima ora biologia, seconda ora geografia, terza ora linguaggio, quarta ora astronomia e quinta ora storia. Come appunto le materie, tra l'altro qui apprendiamo che in Argentina c'è la ricreazione tra tutte le ore, che deve essere il sogno di qualsiasi studente italiano, perché ci sono delle piccole parti chiamate ricreazione che separano queste 5 parti. Ecco, è come se, ma le chiederei a lei di spiegarcelo meglio, in questa situazione estrema, traumatica, ci fosse il bisogno di tornare alla sostanza, agli insegnamenti primari. Because, as I said, this is Harry as a grown-up that tries to remember, to go back, because he feels there has to be some kind of secret lesson, secret code, magic key that his parents left for him and he hasn't seen or found before. Perché questo ricordo, appunto, ripeto, è sempre Harry d'adulto che avverte che nell'insegnamento dei suoi genitori, in quello che loro gli hanno lasciato come eredità mentale, intendo, ci deve essere una qualche chiave di lettura, un codice segreto, qualche cosa che possa rivelare appunto le difficoltà dell'esistenza, permettergli di rileggere la sua storia. And while he's trying to find this kind of magic or secret lesson that his parents left for him, he also remembers those school days and his teachers and the role they had in his education in a very, very essential way. I'm not talking about contents, but I'm talking, I'm trying to talk about the teachers that gave him something that he still values today, and that is the thirst of knowledge. E allora, mentre cerca di ricostruire appunto questo lascito dei genitori, viene portato anche a ricordarsi la sua esperienza scolastica, dell'importanza dei suoi insegnanti e del ruolo che essi hanno avuto e del loro insegnamento più essenziale, non tanto in termini di contenuti, di informazioni, di scolarizzazione, quanto piuttosto l'idea di ciò che può dare valore all'esistenza, ed è la sete di conoscenza. In effetti Harry è un bambino molto intelligente e proprio la sua intelligenza rende ancora più sottile e emozionante, anche straziante a volte, il rapporto fra la sua quotidianità giocosa, allegra, e il non detto di ciò che gli sta succedendo, e che emerge solo in pochissimi punti di questo Kamchatka di Marcelo Figueras, pubblicato dall'Asino d'Oro. La traduzione è di Gina Maneri. Grazie a Marcelo Figueras per essere stato con noi. Grazie a te. E grazie a Mattia Bilardello per avere tradotto le sue parole. Grazie a voi.